Letture di Radio 24. Chi siete voi? L'onorevole. Ma mi faccia il piacere. Sentite, questo passa ogni... Sì, onorevole. E c'è poco da ridere, sapete. Ma guarda che maniera. Onorevole. Chissà cosa direbbe Totò se incontrasse Marilina Intrieri, ex deputato dell'Ulivo e ora garante per l'infanzia della Regione Calabria, che nei giorni scorsi ha rispedito al mittente i documenti che le erano stati spediti da un funzionario della prefettura di Crotone, colpevole di non averla chiamata onorevole. In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Sergio Rizzo commenta questo ennesimo caso di «Lei non sa chi sono io». Gentilissima, onorevole, dottoressa, professoressa, giornalista, gar inf adol regio cal Marilina Intrieri. Mi scuso in anticipo se nella fretta ho involontariamente dimenticato qualche titolo. Come non condividere la sua indignazione? Ricevere una lettera dalla prefettura di Crotone, massimo ufficio dello Stato sul territorio, senza che davanti al suo nome ci sia, oltre che all'appellativo accademico, quello di onorevole. È proprio sorprendente. Ebbene ha fatto a rispedirla al mittente, considerando quella omissione inaccettabile, con la richiesta che venisse integrata con il titolo che le spetta. Passi la perdita di tempo, passi anche il costo della ripicca a carico di noi contribuenti e segnatamente di quelli della Regione Calabria, istituzione presso cui lei ricopre l'incarico di garante per l'infanzia e l'adolescenza. Passi perfino il fatto che il suo illustre nome non figura più fra quelli dei parlamentari da oltre 5 anni. Onorevoli, è sempre bene ricordarlo. Si resta tutta la vita, talvolta pure oltre. Non hanno forse ereditato dai senatori di Roma il titolo di onorevole i consiglieri comunali della capitale? E i consiglieri della regione siciliana non meritano di essere chiamati deputati per essere i continuatori delle assise normanne del XII secolo? Quanto alle scontate ironie che seguiranno la sua rivendicazione, ricordiamo il precedente del parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello, che per essersi rivolto al prefetto di Caserta, Carmela Pagano, limitandosi a chiamarla signora, venne pubblicamente rimproverato dal prefetto di Napoli, Andrea De Martino. Di quale signora parla? È un prefetto della Repubblica. C'è anche un rispetto per le istituzioni. Perché la forma, sia ben chiaro, è sostanza. Al punto che quella benedetta sostanza nel nostro paese adesso è sparita del tutto. C'è rimasta, ahimè, solo la forma. E questo era l'editoriale di Sergio Rizzo dal titolo «Errore non scrivere onorevole? Ormai c'è rimasta solo la forma» dal Corriere della Sera dell'11 settembre. Martedì scorso, al termine di un feroce scambio di insulti tra deputati, Laura Boldrini interviene per riprendere un grillino, ma involontariamente fa capire che per lei la parola PDL rappresenta un'offesa. Il giorno successivo, nel suo buongiorno sulla stampa, Massimo Gramellini ironizza sull'ennesima mancanza di imparzialità da parte della Presidente della Camera. Il PD è peggio del PDL, afferma nell'aula di Montecitorio un oratore dei 5 Stelle, Di Battista. E la Presidente Boldrini subito lo interrompe. Non offenda. 3 volte. Non offenda, non offenda, non offenda, per sottolineare la gravità inaudita del paragone. Dopo aver consultato l'ufficio arrampicata sugli specchi, siamo pronti a credere alla teoria dell'equivoco. L'imperativo che la Boldrini ha intimato, con la consueta voce marmorea, dai riflessi color ghiacciolo, era rivolto al tono del Di Battista, più che al contenuto. Altrimenti dovremmo pensare che il nome di uno dei partiti rappresentati alla Camera, da lei presieduta, sia da considerarsi un insulto. PDL a me, badi come parla, PDL sarà sua sorella. Sai che hai proprio una bella faccia da PDL? Oppure uno spauracchio da utilizzare con i bambini più impressionabili. Se non mangi la verdura, da adulto diventerai un capogruppo del PDL. Se non smetti di piangere, chiamo un PDL con la faccia di plastica e la scopa di pitone. Naturalmente ciascuno può avere sul PDL l'opinione che crede. Berlusconi, per dire, ne ha una talmente pessima che ha deciso di rottamarlo. Però rimane il fatto che alcuni milioni di italiani lo hanno votato. Questo accidente, piuttosto frequente in democrazia, non giustifica, per quanto ne so, un trattamento preferenziale per qualche leader di quel partito che eventualmente incappasse in una sentenza di condanna definitiva, ma dovrebbe indurre i rappresentanti delle istituzioni a una forma elementare di rispetto. Dire che il PD è peggio del PDL non è un insulto, anche se, dal punto di vista politico, non è nemmeno un complimento. E quello che avete ascoltato era il Buongiorno di Massimo Gramellini, intitolato Super Partes, dalla stampa dell'11 settembre. Molti considerano Edward Snowden, l'ex informatico della CIA che ha rivelato i segreti del Grande Fratello statunitense, come un paladino della libertà. Ma per lo scrittore americano Paul Berman, autore del libro Terrore e liberalismo, sarà proprio la tirannia di questo piccolo fratello megalomane a rappresentare un pericolo per la nostra privacy. Quello che fa davvero paura di Edward Snowden e delle sue rivelazioni è Edward Snowden, non le sue rivelazioni. Queste ci dicono che negli Stati Uniti la National Security Agency ha elaborato un sistema per capire se un qualsiasi telefono è connesso al telefono di un terrorista. La NSA monitora anche Internet, spia altri paesi, attacca le reti informatiche cinesi. Eppure da tutto questo io non sono terrorizzato. Nessuno può vedere in tutto ciò il potenziale tecnologico per una tirannia da Grande Fratello. Non mi risulta che in questo momento negli Stati Uniti il Grande Fratello stia calpestando la mia libertà, né quella di nessun altro. Il dibattito politico americano attraversa una fase turbolenta, come accade in tutte le democrazie occidentali. I toni accesi della discussione mostrano proprio come l'NSA in America si occupi di cacciare i terroristi e non di mettere a tacere qualcuno. Snowden, invece, eccolo, il simbolo del dispotismo in arrivo. Non sarà il dispotismo del Grande Fratello, sarà la tirannia dei megalomani sicuri di essere nel giusto, privi di un qualsiasi riconoscimento ufficiale, ma ugualmente convinti di avere il dovere di rivelare i segreti degli altri. Sarà la tirannia del piccolissimo fratello, Snowden, per esempio. Un uomo qualunque, con delle opinioni, come tutti, con l'unica differenza che le sue competenze da hacker gli permettono di agire sulla base delle proprie opinioni. Le strategie dell'NSA sono state definite dal presidente degli Stati Uniti d'America, eletto democraticamente per prendere decisioni di questo tipo, e rientrano nel perimetro legale della Costituzione. Ma a Snowden le decisioni del presidente non piacciono e si sente autorizzato a rivelare i segreti dell'NSA al mondo intero. È della stessa specie di Bradley Manning, da questo punto di vista. Qualche anno fa, in servizio in Iraq, il soldato Manning decise che a lui la linea politica americana non piaceva. Così prese centinaia di migliaia di documenti militari e del Dipartimento di Stato e li passò a WikiLeaks e a Julian Assange, uno di cui apprezzava le idee, evidentemente. Qual è il mio terrore personale? Questo. Un giorno non lontano, chi non apprezza i miei scritti o la mia personalità farà lo stesso a me. Tutte le mie mail saranno all'improvviso a disposizione di tutti. Potranno controllarmi e prendermi in giro. Non che siano in molti quelli interessati, ma qualcuno potrebbe essere interessato. E la cosa potrebbe non farmi piacere. Un'umiliazione e una gogna di questo tipo potrebbero diventare un'esperienza quotidiana. I bulli digitali punirebbero le loro vittime per capriccio e, come Snowden e Manning, avrebbero la ferma convinzione di essere nel giusto. L'ovvia conseguenza sarà che la vendetta e il ricatto digitale diventeranno un grande business criminale, se non lo sono già. Un hacker verrà a bussare alla tua porta per offrirti protezione, un pizzo da pagare per tenere i tuoi segreti al sicuro. Oppure sarai tu ad assumere l'hacker per frugare tra le lettere d'amore del tuo antipatico vicino, il proprietario del cane che ti tiene sveglio tutta la notte. E la gente crede che Snowden sia un campione della privacy e della libertà. No, è il piccolissimo fratello. E lui, o uno come lui, comincerà presto a guardarti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paul Berman, Piccolissimo Fratello, dal numero di settembre del mensile Il.